con Y. Lo senti tanto, grazie. Stavo dicendo, è un K o un Y quello? Un K. È confondibile il rumore di quel microfono, di quel tipo di microfono. No, anche la radio te ne accorgi, la timbrica della voce, del mic che della radio è normale, cioè è tipica. Che cos'è? 14 o 44? 14, questa. No, è confondibile, guarda, non per vantaggio, quei tipi di apparati su questo tipo di frequenza sono quelli probabilmente che vanno meglio di tutti. Abbastanza riusciti, anche l'altro, anzi l'Y è abbastanza riuscito come in AM sto parlando, e dopo sicuramente saranno radio che sono nate per fare le onde laterali, senza ombra di dubbio, però veramente hanno curato bene anche il discorso, a differenza di altre radio che magari sono perfettissime, belle, tutto quello che vuoi, però magari la AM c'erano sì, come optional, però non ci puoi modulare perché sono brutte. Vabbè, diciamo, vogliono ottimizzare meglio. No, questa, come la metti, va il tipo di radio in AM, vanno benissimo. Mi hanno parlato male, io non l'ho ancora sentito, perché una radio che vorrei io, perché mi piace troppo, è che non è troppo facilmente, il 940, mi ha detto che è uno dei pochi che in AM non va tanto bene. Il 940 è una bellissima radio, sicuramente per i 40 metri lì. Le altre bande in banda laterale sicuramente, no, questo non lo so, non te lo saprei dire di AM come si comporta. Secondo me le migliori sono radio così di questa stata e di quell'epoca che vanno bene in AM, diciamo, capito? Ci può fare in AM, FM, oltre che anche in banda laterale. Sì, sì, so, però dico 940 più o meno di quell'epoca lì, forse qualche anno dopo è venuto, però dice che non vende come rendono queste sulla M, però 940 c'ha un ricevitore che è una cosa spettacolare, cioè per quello, infatti molte volte quando c'è problemi di qualche segnalino basso c'è un sistema di conversioni allucinante. È bello, una bella bestia. Io ho visto dei film alla televisione, a parte che è un apparato robustissimo, chi ce l'ha, i radioamatori di un certo livello se lo tengono ben bello custodito, perché è un apparato, pur essendo vecchiotto, ha delle prestazioni impressionanti rispetto ad altri apparati molto più evoluti che magari con tecniche digitali e cose del genere riescono ad arrivare. Quello lì all'epoca era il top del top come tipo di apparato. Ho voglia, molto alimentato. Bello, veramente una bella radio. Ma così come l'ICOM, io ho il ricevitore l'ICR 7000, e pochissimi ricevitori moderni riescono ad arrivare alle prestazioni di questo. E questo è un apparato che all'epoca era il topo della ICOM, poi è uscito il 9000, l'ha superato e poi adesso ne è uscito un altro ancora, però quello è un sistema diverso, un sistema digitale, eccetera, eccetera. Però quando era uscito l'ICR 7000 poteva dire la sua a tante cose. Eh sì, è bella, anche abbastanza ben consistente come struttura. Sì, è più grande del 440, come dimensioni è sia più alto, poco più alto e più largo, poi c'è l'alimentazione del suo contenuto, c'è una ricezione spettacolare. Io ne ho tanti ricevitori, ma neanche vicino a quello, c'ho l'R3000 che secondo me all'epoca poteva essere un buon ricevitore, ma è un giocattolo, ma neanche vicino minimamente a quello che riesce a ricevere questo ICR 7000, e figurati 9000 cosa sarà. Quello è vero, sì, oia. Ecco, mettiamo, andiamo anche l'altro adesso un pochettino. Vabbè, ho sempre fatto di camminare gli apparati, sennò poi, anche come è successo a questo qua, cosa sto andando io, ogni tanto inizia a fare scarichette, qualche problemino, bisogna sempre farli camminare. Vai a tu, riprenditela, facci sentire il tuo 44. No, quasi 44, 48. Adesso lo sto cambiando, l'ho venduto anche bene il 140, adesso sto prendendo l'850. L'850 è un bellissimo apparato. Sì, però vedi, al contrario del 140 e del 440 che spingono in AM, l'850 non ha grandi prestazioni sulla 27. Vabbè, è fatto per altre cose. ho visto il nuovo apparato della Kenwood, che attualmente secondo me è il più bello esteticamente, mi piaceva tantissimo l'IC7008, però ho visto il Kenwood, il 990, se lo vedete è una cosa spettacolare, c'è un display, cioè il manopolone, dove c'è il manopolone tu ti puoi scegliere il tipo di indicazione digitale, cioè ti può fare la procedura, ti ricordi perché apparati legametrici che c'erano con la scala rotante, ti appare una scala rotante digitale, tipo c'è proprio un display digitale e ti puoi mettere o la frequenza in orizzontale classica come la vediamo tutti, oppure il rotante come un coso, i vecchi apparati degli anni 50, degli anni 60, c'è una linea che è fuori dal mondo, quanto è bello. Ci sei mai andato da Walter, ci sei mai andato, sì. Allora, me lo sono promesso e lui mi ha promesso che mi porta. Io la stazione di Walter l'ho vista, cioè su in fotografia, so che c'ha tantissime cose belle, però lui c'ha il coso, quello della Iaesu, quello grosso, il top. Però ti stai dicendo bellissimo, niente da dire, ottimo apparato. Se tu vedi il nuovo, vuoi proprio entrare, l'hanno presentato nel 2012, a novembre 2012, alla mostra di Tokyo. È un apparato enorme, in concorrenza a questi grossi 7008 della Icom e quello grande, l'effetti, come si chiama, l'effetti 2000 mi sembra che sia, quello della Iaesu. Se tu vedi quell'apparato, dici, non ce n'è per nessuno esteticamente. Poi a livello prestazionale sicuramente sarà paragonabile a quello, visto che l'hanno fatto per contrastare. Allora, se il giorno che tu andrai lì al bunker, tu ti sarai fatto un'immagine mentale di come può essere una stanza piena di apparati un po' grande, con di apparati, non sarà mai come quando la vedi, cioè è una cosa. No, non esiste secondo me negozio in Italia che può avere quel numero di apparati, non c'è posto secondo me in Italia che può avere quel numero di apparati, e adesso ti sembra che io stia esagerando, il giorno che ci vai dirai, aveva ragione. Sì, sì, no, lo so, una centinaia di cose. Guarda, io adesso non ho voglia di cercarlo, è una cosa. Io c'è un raccoglitore, chiamo un raccoglitore perché questo è un appassionato da paura, di radio. Cosa c'ha di radio questo tipo qua? Non so se sia olandese o di dove sono. Ci sono migliaia, non centinaia, migliaia di radio. E tutte le radio sono tutte collegate in questa stazione. C'è un capannone, c'è una casa fatta enorme su tanti ripiani, tipo capannone. Ci sono centinaia e centinaia di radio, tutte ordinatissime, le vedi tutte in fila e quasi tutte sono funzionanti e accese. Tu devi vedere cosa c'è questo di là. E poi c'è questo fenomeno, secondo me, io non ho mai visto una stazione di SWL con quelle radio lì e con quel tipo di attrezzature allucinanti. Questo qua lo stesso, credo che sia olandese o qualcosa del genere, l'ho fatto vedere a Marco Scorpion, si ha messo le mani in testa, è una cosa da paura, cosa c'ha? Una radio per ogni tipo di genere di frequenza, tutte interfacciate con il computer, strumentazioni, analizzatori di spettro, di tutto, quello possibile e immaginabile c'è questa stazione, però tutto fatto alle volate, ogni scaffale, cioè con tutti i ripiani e con quella frequenza impostata per ascoltare, per dire, dai satelliti alla radio, cosa ti posso dire, alla 27, ci sono il top di tutti gli apparati di ricezione che è possibile immaginare. No, ma questa, ti ripeto, va vista, rimani a bocca aperta, scusate un attimo per una pazza. Dai, coso, Gianluca. Attention, do you copy number 10 channel? Oh, dimmi. Meno male che ci ho trovato, sarebbe stato un casino. Allora, ho comprato un chilo di tessurizzante, poi ho comprato un chilo di vernice nera con il catalizzatore e il diluente apposito, e mi hanno dato un contenitore con una scala grafica, con un grafico dove c'è 1.4, 1.4, e devo mettere parte di vernice, diluente e catalizzatore. Devo verniciare sull'MDF. Allora, aspetta un attimino, quella tra l'altro è una secca graduata, bisogna vedere che tipo di catalizzatore, se è a 4:1, 3:1, 2:1, stiamo parlando di che cosa? Trasparente o di cosa stai parlando, di vernice? No, 4:1 è trasparente, nera. No, scusa, ripeti. Allora, tu devi catalizzare che cosa? La vernice o il trasparente? Spiegati, non ho capito. No, la vernice, ci metto dentro il tessurizzante, mi hanno detto che va assieme alla vernice. Ok, la devo fare a pistola. E in che percentuale va? A volume o a coso, o a peso? Allora, il tessurizzante va al 50% di quello quella vernice, quindi c'è la vernice 1 kg e il tessorizzante mezzo chilo. Attenzione, stai attento su queste cose, vabbè, diciamo non gli fa niente, se metti un po' di più o un po' di meno non gli fa niente, però stai attento che bisogna leggere attentamente le istruzioni, se vuole cartalizzato a peso o in questo caso mischiato a peso o a volume, perché c'è il peso specifico di un prodotto è diverso dall'altro, perché se tu dici mezzo chilo di uno fa il 50% di peso, non è detto che sia il 50% di volume, è come che tu fai acqua con la benzina, c'hanno due pesi specifici diversi, stai attento a quella cosa lì. Tessurizzante non c'è problema, se ne metti un po' più o almeno non cambia niente, ti può cambiare soltanto l'effetto, però se tu metti il catalizzatore di più crei problemi, se ne metti di meno non ti asciuga. Ecco, no, per essere esatti c'è una scala, va bene, in tale scala mi ha segnato il 4.1 con una X e da lì devo salire, sono andato a quel colorificio. In effetti dovevo andare lì a prendere anche il tessorizzante, ma perché il tessorizzante l'ho preso alla UFAS. Ma se c'è la scala gradata è in volume, non è in peso, stai attento, sono due cose diverse. Perché ti metti quattro parti di coso, vabbè c'è al 50%, arrivi a metà, per dire, arrivi la scala fino a 5 e poi arrivi a 10 con l'altra scala. O come vuoi tutto, con la stecca ci sono tutte le gradazioni come ti piace per arrivare al punto numero 2, per cui se devi fare al 50% o nell'altra parte della stecca, nell'altra scala graduata, arrivi a 3, aggiungi 1 a quello che hai fatto. Mentre se lo cambi c'è diverso il discorso. Allora, io devo mettere adesso la vernice nera, metto la vernice nera ad esempio, no? Mettiamo sulla scala del 4.1 c'è un punto in alto dove fa 3, 2 e 1 che è il diluente. Io devo mettere ad esempio la vernice arriva a 3, poi più in su di lì c'è una specie di grafico che porta un altro numero 2, nella stessa scaletta e quello lì devo metterlo di catalizzatore, poi uno devo mettere il diluente. Sì, rispetto a quelle lì, le dosi esatte, sicuramente non è importantissimo perché se ne metti un pochettino di più, la metti un po' più diluita, se ne metti di meno è un po' più densa, magari, ma te ne accorgi che non riesci a darla se è troppo densa, è importantissimo, scusate per la tosse, la cosa importante è la catalizzazione, devi rispettare esattamente il rapporto, per cui devi sapere esattamente la dose di CO2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, la vernice acrilica normalmente è 2 a 1, poi non so che tipo di prodotto sta utilizzando. Mi ha fatto la vernice apposta nero opaco, da texturizzare così appunto con le componenti apposito che si catalizza con lo stesso prodotto della vernice, sono chiusi, le ho portato la scheda tecnica per non fare sbagli. E niente, poi vabbè spruzzare, ho una pistola, mi stanno una pistola professionale, mi sta andando e quindi farò una mano incrociata. Aspetta una cosa, perché è una cosa delicata quello che stai facendo tu. Questi prodotti sono della stessa marca o due cose diverse? Sono diversi, ma non ha detto che non gli fa niente. No, per quanto riguarda il tessurizzante è Litware, l'altro è BFTV. PPG? PPG, giusto. Però aspetta un attimino, siccome tu devi catalizzare la vernice, il dubbio mio lo sai che cos'è? Tu devi catalizzare la vernice con la stessa dose di catalizzatore, se metti il tetturizzante non fare l'errore di metterci, di aumentare la perdita, se ci metti un po' di vernice e poi il 50% di tetturizzante, non è che devi catalizzare tutte e due insieme, tu devi catalizzare solo la vernice, non il tetturizzante più la vernice, attenzione. È quello che non avevo capito. E poi gli dice scusate, dai cazzo lo butto. Prima quindi faccio la vernice, poi ce lo butto in mezzo. Non vuoi fare mettere la vernice, perché tu cosa volevi fare? Infatti no, ma cioè, è quello che avevo capito, giusto allora. Io faccio tutta la scaletta, così come la scala graduata, come la grafico graduato, mi miscelo bene la vernice come si deve, poi in un altro barattolo ci metto vernice, quella vernice più la dose del tessurizzatore e lo giro, ok? Sì, così, non fare tutte e due insieme, perché se non metti le dosi di catalizzatore, cioè se tu metti vernice tetturizzante, per dire arrivi a un litro di prodotto, dovresti mettere teoricamente se è catalizzato al 50%, 50% di catalizzatore, non è così, tu devi catalizzare la vernice, non il tetturizzante, è mischiato insieme alla vernice, è come che si sta mettendo una polvere in mezzo alla vernice, hai capito? Ma non ha bisogno di catalizzarsi il tetturizzante. Sì, questo mi ha spiegato, ma non ho seguito attentamente tutto quanto quello che mi ha detto. Sì, e sono pronto per verificare domani mattina, capito? Sì, no, tranquillo Roberto, rispetto perfettamente quello che è quella scala graduata. Ecco, adesso io ad esempio, no, mettiamo di condosatore un bicchierino pieno, ok, rispettando la scala, eccetera. E poi giustamente di quel bicchierino pieno il 50% lo metto di testurizzante, va bene, ce lo butto in mezzo, lo mischio, poi quando termino, va bene, lo inizio con la stessa procedura sempre. Aspetta un attimino, stai già sbagliando come stai dicendo tu, ti fai la vernice catalizzata a dose sua, eventualmente se la vuoi diluire o se no se la diluisci dopo, e poi gli metti il testurizzante. Sì, ho capito, però quando la termino la vernice, che l'ho finita quel tanto, me ne faccio un altro tanto uguale e continuo a lavorare. Ma perché non ti fa la dose giusta che ti serve? Casino, e come faccio? Quel bicchiere non mi basta. Ma scusa un attimino, ma tu non c'era una scala, una stecca graduata, te l'hanno data allora? No, mi hanno dato un bicchiere graduato. Ma lascia ripetere i bicchieri che ti fanno solo confusioni. Ci sono le stecche, non ci conosciamo, diciamo, non abbiamo modo di vedere, se no ti davo una stecca graduata, che tra l'altro te la puoi fare anche tu la stecca graduata. Se c'hai un pezzettino di legno, una stecchettina di legno, te la gradui. Per dire, tanto è in volume, dici la percentuale, ti fai per dire numeri, metti 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, da quanto te lo vuoi fare. E poi a fianco gli fai un'altra cosa graduata dall'altra parte e ti arrivi per dire al 50% e ti fai due tacchettine di quello che hai fatto dall'altra parte. Noi ce l'abbiamo tutte le stecche, ce l'abbiamo in 4-1, 3-1, 2-1, eccetera, eccetera. Diversi modi di, per ogni tipo di prova, ormai stanno unificando tutti i valori di catalizzazione, sono 4-1 o 2-1, per cui non c'è da sbagliare. Con questi contenitori, esatto, un contenitore tipo bicchierino, esatto, ne viva, quanto tempo ci perdi? Infatti. Ma in internet non c'è una cosa del genere, se lo cerco, una scala graduata. Come si chiama? Stecca graduata, non è la chiamiamo stecca, io ce l'ho, è che non ci vediamo. Se parti domani, da me te ne do una. Ma state facendo la scala, sarei messa scherzando, non ti dai attacco. No, magari faccio così, aspetta. Adesso cerco un attimo. Allora, stecca graduata per stecca. Graduata per... o si chiama solo stecca graduata? Stecca, proprio, stecca graduata per miscelazione vernici, scrivi, a ver se ti appare qualcosa. Per miscelazione vernici. Non è un lavoro semplice, di cosa i suoi vernici a bomboletta, la stecca graduata, è la sola per mescolare. Tanti vedete, tre bicchieri graduati usati solo come contenitori. Oh. Aspetta. Cazzo, ma nessuno ha postato, belli stronzi. Allora, tutti quanti dicono la stessa cosa, ma dico postatela in una foto, non me la scarico. Però guarda se c'è qualcosa. Guarda, lo vorrei così, entro e me la prendo, così domani vado pronto, non sto con qualche un'altra cosa, ragazzi. Eccola qua, aspetta, il PDF, forse ho trovato qualcosa in PDF. Ital vernici. No, non c'è una cacca. Scusa, tu sei a Itali, no? A Itali non c'è un rivenditore di vernici. Ma non lascia perdere, lascia stare, non capisco un cazzo qua, è un casino. Milena Sagonca, Milena. Allora, miscelazione, essa graduata, pronta a catalogo. Vernice PDF. Mi sa che mi dia qualcosa. C'era anche Gianluca, Gianluca ancora ci... Vediamo un po'. Ma sai che c'era Gianluca, non vorrei che sia andato via. Gianluca ci sei? Se fosse andato via, vai, riprenditelo. Allora, scusa Gianluca. Allora, bicchiere. Ma io comunque, a prescindere, col bicchiere adesso io, no? Adesso io prendo, ad esempio, il casino è, ma posso misurare? Allora posso fare anche un'altra cosa. E no, cazzo, che non è lineare, cazzo, che è logaritmica, il catalizzatore, un casino. No, guarda che è semplice, allora è una cosa semplicissima da fare. Tu ti prendi Cos'era anche un metro me per fare la scala graduata, uno di quei metri apribili, tipo che usano i muratori. Ti prendo una stecca di, noi ce l'abbiamo in alluminio perché sono più comode, larghe 3 cm, dai, lunga sarà 20 cm, 25 cm, e ti segni le tacche, fai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per dire l'altezza, a un centimetro di coso, tanto non penso ne fai più di 10 cm il pull through. Poi tu, dall'altra parte, ti fai un'altra linea, sempre 1, 2, 3, però più alta di quella precedente, uguale a quella, per cui se devi aggiungere a 5, al punto 5, devi arrivare al 50%, ci fai le altre tacche, tu sali e si fa così a salire, tipo tante scale graduate una a fianco all'altra, e la terza è per darti la percentuale del diluente. Sì, allora, io faccio una scala da 1 a 10, ma è il diluente su questa scala, dove lo posiziono? Diluente devi farne 3 di scale, tieni presente che il diluente normalmente non chiude il 10% vuole diluito, perché devi fare cose di grossissima rifinitura, tanto tu stai utilizzando solamente una pistola con un ugello abbastanza grosso, quelle che usano, che cosa è accaduto all'aspirazione della pistola? Oh, c'è l'aria forzata, c'è compressione, normale, poi sarà, non lo so se è a riciclo, se è la classica riciclo o se è accaduta come hai detto tu. No, la caduta vuol dire che c'è la tratta superiore nella parte alta, mentre se c'è la tratta nella parte bassa si chiama l'aspirazione, quando c'è una specie di condotto sotto. Tu dove ce l'hai il serbatoio? Sotto, nella parte bassa della pistola o nella parte alta? Nella parte bassa ovviamente. No, ovviamente niente, quelle sono, diciamo, le pistole che si usavano tempo fa, diciamo che usavano tutti gli hobbisti, però le pistole di nuova generazione sono tutte ad accaduta, e poi ci sono, vabbè, altre cose inutili che te le spieghi, a cavo le pistole sono, diciamo, a bassa o tenore di aria, che sputano anche compressioni molto, vabbè, lasciamo perdere, non entro troppi discorsi tecnici, le pistole, quelle ad aspirazione, giravano tanti anni fa, ormai sono state superate da queste a caduta, che riescono a produrre, a consumare tutto il prodotto, non te ne lasciano mai dal fondo della pistola. Sì, va bene, ma io da carrozziere mi posso far passare anche pistole ne ha 10.000 mucchiate, e lì vicino, solo lo vogliamo fare noi, boh, basta, non vogliamo, ce la metti le palle, lo voglio fare io. Niente, a me mi interessa come ottenere la giusta dose di catalizzatore diluente da mescolare alla vernice che mi serve tutta di un colpo, non posso stare sempre a fare barattoli, capito? Certo, allora prima di tutto infatti è scomodo per quello, però ti fai una stecca, ti prendi, se c'è un pezzo di legno lo puoi fare anche con un pezzo di legno piatto possibilmente, o anche una stina rotonda, cilindrica, come vuoi tu, però siccome la cosa migliore è avere una stecchettina, un pezzo di lamiera, che basta anche un pezzo di lamiera dritta, è importante che riesci a scriverci qualcosa sopra, a fare delle stecche, e ti fai i segni, 1, 2, 3, ti prendi un metro e te li fai esattamente a un centimetro di distanza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diciamo arriva non più di 8, tanto è inutile, 8 centimetri, fai ogni centimetro, arrivare a 8 centimetri, penso che ti bastino 8 centimetri di altezza di prodotto, perché se calcoli che nel serbatoio ci sta circa un litro di coso, di prodotto, 8 centimetri sei già intorno a più di mezzo litro di prodotto. E metti 8, poi dall'altra parte ti fa un'altra stecca, un'altra asta sempre nello stesso punto, a fianco di quella, arriva a 8, arrivi a 16, e così viceversa la terza stecca la puoi mettere di diluente, ma tra l'altro io non ne avrei neanche fatto quella di diluente. Tu la metti per dire 4 parti, a 4 punti, all'attacca numero 4 ci metti a sinistra, nella brigata di sinistra ci metti la vernice, fino al quarto punto, poi dall'altra parte devi andare al 50%, arrivi a 6, e poi diluente, prendi il 10%, li fai e ne metti 2 coccettine di diluente, una spruzzatina di diluente, così la fai ed è semplicissimo. Allora, praticamente il diluente comunque, lascia perdere adesso la scala, ho capito che c'è il graduato, eccetera, ma non me ne frega niente, a me voglio capire una cosa. In quantità, ad esempio, su un facciamo mezzo chilo, bene, ne vuoi fare mezzo chilo, quanto ce ne va di diluente? Ecco. Allora, dipende dal tipo del materiale, tu calcola mediamente, perché lo puoi fare anche più liquida se c'è una buona mano, ma siccome tu stai usando un tipo di prodotto abbastanza denso, lo devi dare abbastanza denso, diluente normalmente lo dovresti mettere il 10%, poi anche aumentato, tu devi fare delle prove, tu metti 10% di diluente e vedi come esce l'effetto, ti metti un pezzo di lamiera, qualcosa, un pezzo di cartone, anzi il cartone non farlo perché assorbe, un pezzo di lamiera sarebbe anche meglio perché è rigida ed è una superficie rigida dove appoggia bene. Fai prima la prova al 10%, se riesci a spruzzarla, se non aumenta la cosa, la porti al 15%, al 20%, per cui se tu c'hai un litro di prodotto devi mettere 10 cc di coso, di come si chiama, di diluente, e vedete non è di critica come misura il diluente, è critico il catalizzatore, perché se ne metti troppo vetrifica troppo facilmente e poi spacca, se ne metti troppo poco non vetrifica completamente. Sì, no, appunto, scusa, il diluente, voi, il catalizzatore, quello che mi interessa, la percentuale giusta, quant'è? Dipende, il catalizzatore dipende dal prodotto, tu quando hai comprato la vernice, nel barattolo normalmente, ma te l'hanno preparata la vernice o l'hai comprata già pronta? No, me l'hanno preparata lì, capito, è nell'opaco, e hanno visto la scheda tecnica, di quell'altro l'hanno abbinato. Quindi è tutto quanto pronto. Dice, se tu prendi questo bicchiere non sbagli, mi ha detto. Ogni volta dice che non termini, te lo rifai, boh, ma tanto me ne serviranno due, tre, da. Aspetta un attimo, ma la vernice tu dove l'hai comprata? Allora, con l'ufficio. Ma dove? Allora, un quarto dopo. No, a Sassari, nella zona industriale, vicino a Piazzetta. Alla PPG c'è andato, da Mura. E che tipo di prodotto ti ha dato? Ti ha dato un prodotto acrilico o che cosa? Penso che sia acrilico, sì. Penso, dovrebbe essere acrilico. È presente normalmente, perché può cambiare anche da marco a marchio. Adesso stanno andando tutti sul 2 a 1, per dire fai una parte di vernice e il 50% di catalizzatore. Però questa roba informati bene, ti conviene telefonare e gli dici quanta è la dose di catalizzazione. A 2 a 1, a 3 a 1 o 4 a 1. Per dire trasparente, noi lo stiamo utilizzando a 4 a 1, catalizzato a 4 a 1. La vernice normalmente è 2 a 1, però tempo fa c'erano delle vernici che lo utilizzavamo a 3 a 1, dipende dal marchio, si stanno tutti standardizzando sul 2 a 1 l'acrilico, però se tu sbagli la catalizzazione ti esce una schifetta, perché poi ci butti tutto. Allora, mi ha messo una X nel bicchiere, sul 4 a 1, io devo seguire quella scala. 3 a 1 quindi è catalizzato, come è trasparente di nuova generazione, per cui tu metti 4 parti di vernice e una parte di coso, di come si chiama, di catalizzatore. Quindi significa 400 grammi di vernice e 100 grammi di catalizzatore, punto. No, non è così. 4 a 1, cioè 4 a 1, 4 parti di vernice e una di così, tu mi hai detto così, mi? Appunto, io ti ho detto 4 parti di vernice e una parte di catalizzatore, però non significa che 400 grammi di vernice e 100 grammi di catalizzatore, cioè hanno un peso specifico diverso, per quello la prima domanda che ti ho fatto è catalizzato a peso o a volume 4 a 1, normalmente si stanno facendo tutti per comodità a volume, per cui siccome il catalizzatore ha un peso specifico diverso, è come che tu metti acqua con benzina, ti ho detto, se tu metti 4 parti di acqua e una parte di benzina è una cosa, però dire 400 grammi di benzina e 100 grammi di coso, la benzina ce ne vuole di più per fare la stessa percentuale di volume dell'acqua, in peso. Hai capito il discorso? Sì, ho capito, basta. Prendo quel bicchiere e io lo faccio così, boh. Ogni volta lo pulisco bene, basta, rivedo la scala uguale e continuo così, boh, punto, chiuso. Lo faccio col bicchiere, quando mi serve lo ricarico. Ma devi stare sempre pulendo e smontando. Secondo me se ti prendi la stecca, fai come ti ho detto io, non stai a prendere, ti prendi una stecca di alluminio, di qualunque fare, sarebbe meglio l'alluminio, e te le segni, fai 1, 2, 3, 4, come ti ho detto io, e poi a fianco a quella cosa ne fai un'altra e sale di più di quell'altra. Vedi, questa sale sino a 5, l'altra la fai salire sino a 8, sino a 10, e fai la percentuale, ti metti 4 tacche di coso, di quella lì, e poi con l'altra ne arrivi a 5. Vabbè, lo puoi fare anche con una solo, sta facendo l'unica scala graduata, se 4 a 1 fai, per dire, 4 tacche di vernice e poi una tacca di coso, di catalizzatore, non sbagli, su un contenitore cilindrico, non conico, perché tutti quelli sbagliano, molte volte ti mettono il contenitore conico ed è un'indicazione un po' errata. Ok, quindi quindi a questo punto praticamente prendo una sacchetta di legna, faccio una scala da 1 a 8, 8 cm, e l'altra scala invece il catalizzatore, siccome ogni 4-1 posso fare così, ogni 4 cm devo mettere un centimetro di catalizzatore. Basta. Così semplicissimo, senza fare due scale graduate, ed è quelle che abbiamo noi, hanno tre di scale graduate una a fianco all'altra. Tu ne puoi fare così, siccome sai che il catalizzatore tu devi riferirmi a 4 cm, dividi in 4 parti, dai, se non la fai, se la scala graduata la fai per dire anziché di 1 cm la puoi fare di 2 cm ogni tacca, per dire se devi vedere più o meno quanto è grande, quanto te ne serve, così non te la perdere tempo, per dire fai 4 tacche di coso, ti fai la scala graduata fino ad arrivare a quanto vuoi tu. Alla quarta attacca ci metti la vernice, alla quinta attacca ci metti il catalizzatore, come riempi, vedi che arriva alla quinta attacca ti fermi e non sbagli. Questo è il sistema più semplice e migliore per fare questo tipo di lavoro. Poi ci sono quelli che lo fanno con la bilancia, però la bilancia è diverso perché ti conta il peso specifico. E ok, vabbè, ci vuole un po' più di conoscenza del prodotto. Sì, non va bene, mi va bene quella della stacca graduata, allora. Ogni 4 cm, dopo il 4 cm a destra, 4 più 1, 5, ecco, che arrivi un centimetro su a destra, dal 4, ed è quello è il 4 a 1, punto. Certo, non c'è da sbagliare, naturalmente 4 cm di prodotto è poco, non so se ti basta a te, magari tu ogni fetta anziché farla, ogni tacca anziché farla ogni centimetro la fai ogni 2 cm, per dire la prima tacca è a 2 cm, la seconda a 4 cm, l'altra a 6 e a 8 così, e poi quando vai in alto li fa c'è lo spazio tra una tacca e l'altra, anziché farla a 2 cm la fai di 2 cm, così ci sta più prodotto, hai capito? È chiaro che se aumento, se ogni tacca è 2 cm poi inizia a essere 2, 4, 6, 8, ogni 8 cm ci vogliono, siamo 2, 4, 6, 8, ci vogliono già 2, 4, 6, 8, che cazzo, allora varia di nuovo, perché a quel punto 4 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, ogni 8 cm 2 cm di catalizzatore. Infatti devi fare sempre 2 cm perché tu fai la scala, per dire, rimane sempre da, però come unità di misura, per dire, la distanza da ogni tacca, anziché fare un centimetro, perché poi alla fine sono 4 cm, 4 tacche, tu la distanza tra tacca e tacca la fai valere 2 cm, in modo che c'è il doppio del volume, e quando arrivi alla quinta tacca, anziché essere un centimetro, sono 2 cm, non so, forse è sempre un po' complicato dirlo così, però la cosa sì. E vabbè, ma io adesso per non fare lì 2 o 4 se non giocando una Superenalotto, ne faccio una da 1 a 8. Bene, cosa faccio? Alla settima attacca, tanto sarà quella più o meno la misura, alla settima attacca di un barattolo normale cilindrico così, alla settimo centimetro, ci metto, sono 4, al quarto ce ne metto 1, all'ottavo ci dovrebbero essere 2 di quelle, è provozza, devono essere 2 cm di catalizzatore. Quindi la scala deve fare sino a 10 tu, perché se arrivi a 8 devi fare una 4 a 1, devi mettere 2 tacche, devi arrivare a 10 con la scala graduata. Esatto, 4, 8, 10, sì, è così, è vero. Sì, beh, per forza mi devo sollevare a 10, devo aumentare i 2 cm del catalizzatore. Sì, no, va bene, comunque ho capito, adesso ho capito che c'è quella soluzione che è buonissima, non c'è problema. Comunque dai, tranquillo, adesso ho capito e lo risolverò a quel modo. Non, infatti stavo cercando di capire questo 4 a 1 il significato, ovvero se era giustamente legato a questa volumetria che è la costante del peso specifico o se è appunto il tipo di divisione. Guarda che non è semplice. C'è da confondere, infatti stai attenti quando ti dico, normalmente sono in volume, però se tu devi produrre una vernice al tintometro non si guarda più il volume, si guarda il peso, per dire metti 50 grammi di bianco, 3 grammi di nero, 2 grammi di rosso e fai così, e lo fai con la bilancia ed è un'altra cosa, per cui bisogna starci molto attenti. Lui ti ha detto 4 a 1 in volume, ti ha dato una scala graduata per cui stiamo parlando di volume, se no ti avrebbe detto in peso, e magari i rapporti erano diversi, per dire ti diceva metti 100 grammi di vernice e 73 grammi di, 73 grammi, 7 grammi di coso, di catalizzatore, perché il catalizzatore c'ha un peso specifico diverso dalla vernice, magari non di tanto, però è diverso. Ok, vabbè, comunque, hola. Comunque lo risolvo tranquillamente, no? Poi ecco, questo risolto. Adesso per spruzzare poi faccio mano incrociata normale, no? Guarda, se vuoi un consiglio, fatti prima una prova, così visto che la pistola mi ha detto che non è la tua, non la conosci, perché di lì è anche questione di mano, ti fai prima una mano su una parete, un pezzo di qualcosa che ti fai la prova e vedi un po' come rende la spruzzatura, non ti mettere troppo vicino, sono oscuri, in modo che ti regoli anche la pressione, non so se si abbia, vabbè, ma quel tipo di pistola che stai dicendo tu non ne hanno un regolatore di pressione, di cosa, ti regalano solo l'ugello e basta, e poi chiudergli un po' l'aria, però non c'hanno il manometro, per cui lasciamo perdere. L'idea è prima una mano di velatura, tutto in giro, ti conviene partire da dove, potrebbe fare una superficie di un coperchio di qualche cosa. Ho due casse acustiche. Ah, no, non c'è problema. Ti fai parti dall'esterno, prima ti fai il bordo esterno e poi vai a scendere tutto a sfumatura, gli dai una mano proprio a dargli una velatura, in modo che gli dia anche una aggrappante, come una pettura aggrappante. Dopodiché poi gli dai una mano un po' più piena e poi se vuoi la puoi anche incrociare. Aspetta, allora facciamo così. Io ho due, sono 68 ognuna per 36 per 27 mi pare, per darti un'idea, poi sono le piccoline, vabbè, niente, comunque io parto prima con darle una sorta di aggrappante come hai detto tu, tipo sfumatura, dandole così un po' da lontano in modo che arrivi non molto compatta, giusto per darle proprio il fondo. Dopodiché inizia la rendere più pesante e poi inizia a incrociare per coprire, giusto? Sì, gli dà una specie di velatura, come che la stai spruzzando così, gli fanno una sporcatina sopra, in modo che si compatti bene, serve come aggrappante, quello lo lascia appena fissare appena, in modo che vada un pochettino fuori un po' di solvente, e poi gli dai l'altra mano un po' più piena. Poi se vuoi farla a mano unica, se c'è la mano buona, la puoi fare anche a mano unica, se dito per prodotto è abbastanza denso, se no gliela lasci fissare appena, non ti fa prendere la fretta, perché tutti sbagliano e poi scuri. Gli dai una mano, la prima mano come la velatura. La seconda mano, se sei bravo, la puoi fare a mano unica, se no gliene dai un'altra mano un po' più piena e poi l'ultima mano a rifinire, magari gliela dai un po' più liquida all'ultima mano. Sì, no, ma sono abbastanza bravo con la pistola, non c'è problema. Sono un professionista, oddio, non devo verniciare il collo della testata di una Ferrari, no? Che ti auguro. E neanche la porta dello shuttle. No, devo verniciare queste casse bene, lo devo fare bene, perché però mi interessava più che altro la delucidazione sulla vernice, ma adesso sono più tranquillo. Ora sono tranquillo perché poi abbiamo speso 90 euro, Tutto, tra vernice, catalizzatore, diluente e tessurizzatore 90. Vabbè, diciamo non è poco, dai. Prezzo suo, dai. Ok, vabbè. Non farti prendere la fretta, fallo, dagli il tempo un po' di ossidazione, perché c'è un po' di umido, per cui i tempi di evaporazione del solvente sono un po' più lunghi. Fallo in un locale. Dove lo fai? In che stanza la fai questa roba? Non so, stavo pensando, c'è una tettoia, lo facciamo, è grande, l'ambiente è grande, però non possiamo metterci dentro lì, lo faccio fuori. Ma non all'aria aperta, cioè nel senso all'acqua, sotto l'acqua, mettici qualcosa da protettivo, perché quel prodotto ci vuole un po' a seccare. Non è che non lo faccio sotto l'acqua, ma stai scherzando, fuori non c'è, nel senso che fuori in cortile, là, però ci sono le tettoie. Sotto una tettoia, quello lì sto dicendo, ma perché uno male si mette fuori in un piazzale all'aria aperta, dice vede una bella giornata e si mette di lì, fanno un posto protetto anche per la polvere. È chiaro che deve essere fuori polvere, almeno c'è che non essica la vernice. Vabbè, adesso vedo, là. Comunque niente, ti ringrazio, sei stato molto chiaro. Io ripeto, ho visto questo bicchiere così appunto conico con la scala lì è giusta, perché ho visto che varia in modo più strano, perché essendo conico il bicchiere è chiaro che i numeri sono quelli. Ho visto questo grafico dove appunto c'è l'arregabbiano a destra, ecco, che rappresenta appunto all'estremo dell'ala, rappresenta il diluente, al centro dell'ala c'è il catalizzatore, all'inizio dell'ala c'è la vernice. più o meno quello che ti ho detto io, che la scala graduata che ti dicevo io fare, ma tu le fai una unica e prendi una stecchetta d'alluminio e ti segni solo una, e poi metti 8 parti di catalizzatore e due parti e due tacche di catalizzatore, non sbagli anche usare quelle cose lì, magari è troppo piccolino e stai a fare, a pulire, a sporcare, eccetera eccetera, e non conviene. Fai come ti dico io, è più semplice, ti metti un cilindro, un barattolo cilindrico di quelli anche in lamiera, tanto il vernice assorbente non ci sono problemi. Ok, perfetto, no, va bene, ora mi sento meglio. No, ma stavo dicendo, no, poi ma il carrozziere me ne può dare anche una, sai quelle che loro un po' dismettono, no? E lì vicino, mi ha pochi metri, se chiamo lui me le fa lui, ma è perché le vogliamo fare noi, proprio per gusto. Capito? Adesso io mi faccio tutta la mescola bene, così mi faccio la sticina, mi faccio il barattolino con la vernice, faccio la mescola giusta, la metto dentro la pistola, me ne faccio dare una di quelle appunto semiprofessionali o professionali di cui non ho dismesse, non andrà bene di quelle come hai detto tu con il serbatoietto sopra, qualcosa ce l'avrà. Sì, no, a caduta è più comodo, almeno lo consumi tutto il prodotto, perché quelle all'aspirazione ti rimane sempre il fondo e ce lo devi sempre buttare, mentre quella lì ti consumi tutto quanto, per dire l'ultimo poco che ti rimane glielo diluisci e gli dai una sfumatina generale in modo che ti esca rifinito meglio il lavoro. Quello sicuro al 100%, quello sicuro al 100%, quindi praticamente se ne devo fare, lì minimo e un chiletto ce ne vuole a quelle due. Ma quante sono le casse? Te l'ho detto, 68 per 36 per 27. Ma è legno questo, cos'è, o MDF? MDF. Colore? Il MDF è scuro, ma non... appunto dico il colore classico, non c'è altri prodotti sopra, dico, come sia il colore marroncino scuro su. Sì, solamente lo stucco sulla fuori, E qui, diciamo un chilo te ne avanza pure, se lo fai, diciamo, considerando che c'è il catalizzatore, poi c'è il texturizzante, un chilo te ne avanza, tenetene un pochino, secondo me, se c'è la mano anche con mezzo chilo riesce a fare tutto, poi se ne vuoi dare in abbondanza, a consumarla, 750 grammi. No, già gliene do perché sono le piccoline, no, che sono 4, sono quelle 2 più altre 2, che sono 36 per 28 per 12, no, per 15, altre 2 piccole messe sopra quelle. E dimmi una cosa, ma come le pugi queste qua? Il frontale pure devi fare? Tutto. E sotto come fai? Appunto, le appendo, no? Dove ci sono gli altoparlanti, fuori gli altoparlanti, lì le appendi. Sì, lì serve il foro. Serve il foro, prendo un gancio. Ah, ho capito, no, pensavo che dovessi fare solo le pareti esterne e il frontale, per dire, non lo faccio. No, faccio frontale, fondo, tutto appese. E già mi arrangio. Capito, non mi puoi mettere a fare un'automobile, però, insomma, quella cosa lì poi una volta che la impari ce lo sai per sempre. Diciamo non è così difficile, c'è di peggio, dai, come lavoro, come difficoltà, non c'è problema. Adesso cambiamo discorso, ti voglio fare una domanda tecnica a te. L'impedenza di un altoparlante con un test normale e analogico si può misurare, un'indicazione precisa? No. Te la dà l'indicazione, ma non è quella. Prima di tutto perché l'altoparlante è un elemento elettromagnetodinamico, quindi questa è la definizione giusta, tecnica, elettromagnetodinamico. Quindi è un corpo che viene percorso da corrente alternata, ma a prescindere il tipo di avvolgimento può essere più grosso e più sottile, quindi tu quando vai con un tester in continua misuri la resistenza del filo di rame, non misuri quello che è veramente l'impedenza reale dell'avvolgimento, perché l'impedenza è un dato di fatto che praticamente viene fuori con la reattività dello stesso cono che è immerso nel magnete, non c'entra nulla. Se tu misuri invece in continua un pezzo di filo, perché stai facendo quello, sei più grosso, gli stessi ohm ti risulteranno 6 ohm, se l'altoparlante è avvolto con un filo più sottile risulteranno 8,5 ohm, esempio. Sì, no, sapevo, pensavo ci fosse un metodo magari alimentando con qualcosa il Twitter, per esempio, mandandogli una tensione o qualcosa, il Twitter, l'altoparlante, mandandogli una tensione fissa, ti desse un'indicazione del coso. Perché l'ho fatto, infatti, come hai detto tu, ti dà un'indicazione, solo ti dica cosa hai detto, sai se hai interrotto o no l'altoparlante. Però per calcolare, per vedere il valore reale, non, io pensavo magari ci fosse qualche sistema mettendolo, alimentandolo, non lo so. E un'altra cosa ancora, quando sto andato a parlare collegato così in corrente continua, messo sulla portata ommetrica, se tu spingi il cono, siccome il cono diventa un generatore di corrente, a quel punto è anche c'è un ritorno, no? Cosa succede? Inizierai a leggere un'impedenza, come dici tu, tra l'altro incasinata. Sì, infatti l'ho visto, no, ma volevo sapere, ci vuole proprio lo strumento adatto, misuratore di impedenza, ci vuole. Esatto, ci vuole un impedenzimetro, per essere più esatto, ci vuole un impedenzimetro per altoparlante specifico che emette un segnale che è interfacciato con un apposito strumento che legge appunto questo impulso alternato, sa dirti nelle varianti, diciamo così, di costanti alternate, perché il vettore alternato che devi misurare, misurando il vettore alternato ti dice qual è l'impedenza ohmica esatta per altoparlante, niente di più. Sai perché ti ho fatto questa domanda? Io ho due casse piccoline della Technics, belline, diciamo, all'epoca erano carine perché erano abbinate al 1200 piatti da discoteca, quelle in alluminio, la stessa linea, uguale identica, due vie con la protezione a relè, diciamo, casse non dico di qualità di suono, perché erano delle monitor piccoline che le mettevi vicino al mixer per avere un monitor, diciamo, di quello che stavi facendo. Purtroppo c'ho i tweeter partiti. Io, il dubbio mio, questi tweeter credo che siano a 6 ohm, cioè c'è il tweeter interrotto, non riesce a sapere con esattezza l'impedenza naturale di questo altoparlante. No, ma c'è una sigla, guarda, se tu guardi, se c'è scritto ad esempio 48 3042 06, è 6 ohm, quelli erano tutti così siglati. Allora, ci sono scritti dei numeri, come mi hai detto tu, adesso me li devo guardare. Secondo me sono a 6 ohm, perché c'è anche un 6, sembrerebbe 6H, hanno messo, potrebbe essere 6 ohm, l'ohm l'hanno indicato come H, però non è detto. Secondo me sono a 6 ohm, però come immagini a questi numeri tu riesci a risalire all'impedenza. Sì, c'era scritto in quella serie di casse acustiche così. C'era scritto. E via. Beh, intanto un Twitter si è partito comunque, grazie al contributo di una bella onda quadra, che praticamente quando arriva ad essere squadrata in modo costante ha un picco che praticamente raggiunge una corrente continua. Ecco, è quello, non è più una corrente alternata a quel punto sinusoidale, ma è una corrente, diciamo così, continua proprio perché il picco è un'onda quadra. È un'onda quadra e quindi è molto più ripida della sinusoide. Gli intervalli sono diversi, perché sono diversi, e quindi diventa come se fosse una corrente continua più o meno, e te lo brucia il tweet. Sì, si è detto bene, tieni presente, queste calze loro le danno per 40 watt RMS, le davano, c'è un interruttore dietro alla relè, come lo tocchi c'è un pulsantino dietro, come intervengono le protezioni. Allora, per fare un esempio, io col Marantz, che dà più di 100 watt, intervenivano subito le protezioni perché c'era un tasso di torsione abbastanza elevato. Con Revac gli ho dato 600 watt di picco, gli ho dato più la potenza dell'amplificatore, quelle calze erano a 6 ohm mi sembra, per cui il Revac tira quasi 300 watt a 6 ohm di potenza. Almeno le danno per quella potenza lì, diciamo 250 watt, e di picco lo strumento arrivava a 600 watt. Non sono intervenute le protezioni perché era un segnale pulito, limpido, proprio, vedete quanto era ben fatto quell'amplificatore Revac. Il Marac, per dire, c'ha un bel suono, però intervenivano subito, appena sollevavi subito i 50 watt impattivano subito le protezioni. Le ho provate con un altro amplificatore e probabilmente le è arrivato un picco di distorsione di acuti, perché molte volte si esaltavano gli acuti, le ho, come hai detto tu, corrente continua e le ha bruciati. Con l'Eva che gli ha dato 600 watt di picco non le ha fatto, manco le protezioni sono intervenute. C'è qualcuno che vuole entrare? praticamente, essendo che i fianchi sono molto ripidi, diciamo che non ha una discesa, non risulta più una corrente alternata sinusoidale, per cui tende a bruciare il Twitter. Una squadratura, non c'è niente da fare. E via. Poi vabbè, a parte i casi degli apparati che si bruciano, i finali bruciano addirittura il cono, quello è un altro discorso, il cono di bus, quello è proprio in corrente continua, allora parte corrente continua dell'amplificatore, ma è diverso. Mentre che per brucia del Twitter, siccome vi è il condensatore di disaccoppiamento, buono che sia il condensatore di disaccoppiamento, comunque lascia passare l'onda quadra, che ohimè, purtroppo, essendo continuativa in senso di tipo di onda, non è come la sinusoidale che se la guardi è la classica, sali, fai la curva dolce, discendi e poi risali. L'onda quadra fa un percorso rettilineo per poi scendere molto ripidamente, risalire molto velocemente per un altro modo ripido. Se tu ne avvicini tante di queste onde quadre, praticamente ti accorgi che è quasi un segnale continuo. No, ma quello che volevo dire, con il Revac che gli ho sparato 600 watt, però nitidi, puliti, perfetti, non è successo niente, non sono intervenute le potenze. Col Marantz, che ha dato molto ma molto meno potenza, gli ho spaccati quel Twitter, non è intervenuta la protezione, cioè, o se è intervenuta non ha salvato il Twitter, perché molte volte interveniva, però interveniva soprattutto per le basse frequenze, per le acute non c'è stato verso e l'ho bruciato. Sì, vabbè, comunque non c'entra niente, no? È un po' difficile. Allora, l'unico che non ti brucia il Twitter è l'amplificatore valvolare, punto e basta. Perché però non lo brucia il Twitter? Perché non squadra in modo aspro come squadra il transistor esatto, e di qui ritorna il discorso delle armoniche, del controbilanciamento, e siamo sempre punti a capo. Ecco perché io non li posso vedere i finali a transistor, anche per questo motivo, a parte che non sono capaci di scindere il suono dal rumore come fa la valvola, che questo è sicuro che loro se lo sognano, e non se lo sogneranno anche da qui all'eternità, perché quando una cosa fisica è sulla natura di questa terra e deve lavorare con gli elettroni di questa terra, sinché vada a lavorare con gli elettroni di questa terra, il transistor sarà sempre fallimentare in campo audio. Sì, vabbè, diciamo, sono filosofie di cose costruttive diverse. Anche la valvola naturalmente ha dei limiti, e che non mi puoi negare. I limiti che avrei voluto far sentire io a quelli increduloni, però con i miei apparati, non con quelli che comprano dai cinesi. Ecco, io faccio sentire io i limiti di dinamica che dicono loro, ma che vanno a cagare. Ricordate una cosa, allora, e tu lo sai questo, se vuoi tu una vernice la aggiusti, ci sei, sai che è un becco, la aggiusti, e forse con quella aggiustaggio la fai diventare meglio di quella vernice che definiscono che non consulta. Quindi stai attento, per ogni cosa c'è un rimedio, però la natura di un prodotto non la cancellerai mai, cioè quello che è. Il problema è che il transistor per natura non serve per l'audio, è applicato, neanche aggiustandolo, perché non è in quella natura che può lavorare. È buonissimo, dei chipset, tutto quello che vuoi, nelle funzioni che vuoi, ma in campo audio è negato. Punto e basta, non c'è niente da fare, anche se viene utilizzato, anche se viene truccato, anche se viene, però non ha la stessa struttura della valvola. La valvola lavora in un modo diverso, è troppo, una questione troppo complessa così. Però c'è da dire una cosa, se noi guardiamo strumentalmente un apparecchio a valvole di qualità con un transistor, un amplificatore a transistor di elevata qualità, e vediamo tutti i valori, tutti i valori, diciamo, qualitativi, risposta in frequenza, distorsione, eccetera eccetera, il transistor se la caga 4 volte la valvola. Tu mi dici a livello acustico di uditivo, a livello uditivo probabilmente suona la valvola è irripetibile, perché quando tu ascolti la voce di una persona sentita con la valvola col transistor si sente a orecchio che ci sono delle differenze come fedeltà, però se tu inizi a sollevare a livello distorsivo e cose del genere, la valvola c'ha dei limiti, il transistor, per dire, puoi sparare di più e le senti di meno questi difetti. Sì, però non si è detto tutto allora sul transistor e sulla valvola. Strumentalmente tu però non puoi provare vede comprimere le molecole dell'aria, cioè manda in compressione, in rarefazione le molecole dell'aria, che sono quelle che fanno giungere il suono alle nostre orecchie. E ritorna il discorso, è inutile che uno mi faccia vedere solo giro oscilloscopi o cose che lo sappiamo che è così, ma a nulla serve che un segnale sinusoidale, quando è sotto la pressione di un altoparlante, poi non solo non distorce, ma distorce una, centomila, milioni di volte. Quindi non è servito nulla che tu hai 0,0001, quando il movimento del cono, cioè quella trasformazione da impulso elettrico a movimento meccanico, avviene in modo irregolare o errato, no? A nulla serve, ma proprio a nulla serve, che sia un 0,0001 50.000 zeri davanti, perché poi il cono comunque non compirà quegli spostamenti regolari che deve compiere per riprodurre fedelmente il suono e di conseguenza potenza sonora. Allora l'amplificatore a transistor si siede e genera rumore, e ne genera altro, poi altro ancora. Allora, infatti, questa cosa che mi stai dicendo tu sono pienamente d'accordo. Cioè, per esempio, io sono un estimatore delle valvole, se mi metti un amplificatore a valvole fino a un transistor, sceglierò sicuramente, parliamo di qualità, non parliamo di mondezza, sempre, sceglierò sempre quella valvola. Però questo discorso che mi stai facendo tu, il discorso degli altoparlanti che hanno un limite, fisiologico, che non c'è niente da fare, e questo personaggio famoso che l'altra volta ti ho nominato a te, questo certo James Buongiorno, che è un grandissimo progettista di amplificazione, eccetera, eccetera, lui ha detto che ancora non esiste un altoparlante in commercio che riesca a renderti le prestazioni che ti potrebbe dare il transistor, l'amplificatore a transistor, perché lui è uno di questi progettisti che secondo lui il transistor a livello di costo teorico almeno è superiore alla valvola. E lui dice, io l'unico sistema per ascoltare la musica, perché non esiste un altoparlante, che adesso sono con le cuffie, con le cuffie, famose cuffie elettrostatiche. Dice, quello lì è uno dei sistemi che si avvicina a quello che dico io come acustica. Per cui tu mi stai dicendo la valvola si adatta meglio a questo tipo di discorso di altoparlante, pienamente d'accordo. Però se tu vuoi avere certe precisioni di risposta, eccetera, eccetera, con la valvola non riesci ad arrivare. E con l'altoparlante allo stesso tempo non riesci ad arrivarci. Per cui lui ha detto, ci vogliono solo le cuffie di altissima qualità, per cercare di notare queste differenze. Ecco, è proprio lì che si vede che è invalido il transistor, si vede nella sua invalidità, nella sua incapacità di interfacciarsi con un altoparlante elettromagnetico dinamico. Dai, gli facciamo un altoparlante di 80 milioni di euro, che ne pensi? Questa è una cosa, e il suo discorso è sballato. Quando uno mi dice così, a prescindere dalle sue capacità teoriche, non ha la minima idea ancora fisica di che cosa fa il suono, e non c'è più, è fuori di testa. Ma ti rendi conto che una cuffia elettrostatica intanto è un'utopia, stare lì con cuffia elettrostatica, io prendo un altoparlante, stai attento, se poi parliamo di crossover allora cambiamo di nuovo. Infatti l'altoparlante, perché l'amplificatore a valvole gradisce moltissimo con larga banda, con collegamenti di impedenze alte, eccetera, perché lui riesce con lo smorzamento suo a controllare perfettamente quello che è il cono e riesce a darti, a renderti un suono brillante, dinamico, fedele. È inutile che loro cantino, loro cantano a scopo commerciale, ma è un altro discorso, capisci? E questo te lo dice uno che ha dato susse nere a finali di 300 watt con uno di 6 watt e si è visto, quindi alzando, regolando, facendo amplificatori, equalizzatori, era solo rumore, fondamentalmente era un rumore, confusione. Vanno bene a fare il porco chuck per le serate così, però hi-fi è un'altra cosa, lasciamo stare. Spingere potenza pulita non è facile, perché la potenza pulita poi ti dà la resa musicale. La resa musicale, caro mio, è potenza. E la potenza è quella molecola compressa e rarefatta che arriva al nostro orecchio. Picche. Ritorniamo sempre allo stesso punto. Se un amplificatore a transistor non è capace di pilotare il cono, non riuscirà mai a mandare in rarefazione, in compressione, le molecole dell'aria. Non ne farai niente, nulla, rimarrà lì, rumoroso. E vabbè, diciamo che ci sono dei progetti a transistor di qualità, ce ne sono amplificatori, non siamo così drastici, diciamo il 90% c'è mondezza, ma ci sono anche prodotti a transistor che hanno dei bei suoni. Io mi devo far portare, anzi non me l'ha presa perché le avevo chiesto a prestarle, ma non so cosa si prestano. Questa persona che ha dei begli amplificatori, c'ha un collezionista, mi pare che l'avevo già detto, che ha i Mac Levison sostenuto e i Macintosh, però il Macintosh forse se lo vende. E lui le ascolta con le cuffie elettrostatiche della Sax, non so se le conosci. Io non l'ho mai sentito, però conosco gente che le ha sentite e mi ha detto, se senti quella cosa lì ti dimentichi di qualsiasi componente acustico di qualunque genere di casse. E quello non l'ha mai sentito lui. No, un altro che non ne capisce niente. Ma lascia stare, no, è troppo complessa la cosa, no, siamo qui a... Sì, allora, ricordi una cosa, io adesso convinzione, a questo punto, partire con una convinzione senza mai aver ascoltato... Perché, allora, perché partì la rissa con Williamson? Con Williamson ci fu una rissa e fu un pochettino messo da parte, proprio perché Williamson intanto è il detentore numero uno del suono reale, cioè del suono vero, della vera hi-fi. Infatti basta che tu ritocchi Williamson e sei alle stelle, ma chi lo te lo dice? Il miglior ingegnere del mondo te lo dicono, ritoccano Williamson, è musica, non c'è niente da fare. Un pull di valvole vere, con trasformatori veri, di uscita veri, fatti come si deve, non è ferraccio, non sono valvole, non sono lampadine, sono cose fatte bene. Sono dei tubi, sì, tubi a emissione termoionica fatti bene, non sono lampadine, lo ripeto ancora. Sono quei componenti avanzati che bisogna saper usare. Il transistor è troppo facile, fai un push-pull, gli dai uno specchio di corrente, corrente di riposo, beh, via, se stai andando. Non hai problemi. Con la valvola non è così, caro mio, in virtù della sua alta impedenza bisogna essere ben controllata, ci sono un sacco di complicazioni, però quando suona, per l'escursione di tensione che ha, e per la sua capacità di scindere il rumore dal suono, ma lascialo stare, il transistor è una buffonata nel suono, dai, l'ho provato 10.000 volte. Vabbè, diciamo, già ho sentito anche amplificatori a transistor che danno la loro, dicono la loro, poi diciamo, io preferisco anche io, come hai detto tu, la valvola, però a livello economico un amplificatore a valvole, se ti metti a sentirlo a certi livelli, costa una cifra esorbitante. Ah, il mio impianto è valutato 25.000 euro. Ne sto facendo uno a mio amico, mi appunto domani mi dice le casse, mi un periodo del mio, quello lo stesso ho valutato 72.000 euro e ho fatto un dualogato favoloso con le sei in uscita, una cosa spaventosa, un pull di 6 V6, sempre la stessa tecnica mia, e ho visto che pompa come un dannato, in un corpo unico era amplificatore, a scapito di un leggerissimo rosio di fondo dell'altoparlante, ma proprio quasi impercettibile, però ha un suono, mi ha detto che è un'altra cosa. L'amplificatore ne ha 4-5, non li vuole vedere, no. C'è un motivo. Ma hai parlato di 6V6, io ho visto gli amplificatori, non so se li conosci, gli Audionaut di amplificatori. Sì, caspita, perché no? Non solo, conosco anche un dipendente di quell'azienda, che è un mio carissimo amico, intanto si fa sentire via internet. Una cosa, ma che valvole utilizzano? Perché sono completamente diverse dalle valvole classiche che tutti usano, le SV6, le L64, le L34, quelle usano le valvole delle ampolle enormi. Le due a tre sono delle valvole mitiche, loro dicono mitiche, che tu una valvola, ogni valvola è sul suono integrato, me ne parla con questa monoplacca di nonno, per me sono roba di nonno. Io mi piacciono le valvole fresche, oppure i pentoli, o queste cose che dicono loro, vedi, a volte esagerano questi trioli, i due a tre sono dei trioli, che c'è il long duck di Audionote che costa, non mi ricordo più, 20.000 euro. Appunto, hanno dei prezzi esorbitanti, potenze molto limitate, sono intorno agli 8-10 watt, 15 watt il massimo, però vengono considerati ai massimi livelli nell'ascolto, le prove di comparazione sono ai massimi livelli. Vedi, anche lì c'è una filosofia, però la cosa più giusta è quando l'amplificatore è nato per lavorare, io li faccio nascere per lavorare. Quelli che io pompano seriamente, cazzo, se tu emetti ti fai una serata danzante, tranquillamente è conservata una serata danzante che ti assorba pure, ma non solo, se alzi il volume non ci stai dentro, ma ci stai con una poesia che comunque fa piacere ascoltare, che quando passi nei punti impulsivi del brano mica si siede. No, infatti la Leonotte non c'ha come per gli altri marchi importanti americani che tirano potenze 300-400 watt, soppesano 100 kg di amplificatore, questi sono amplificatori potenze molto modeste, curate nei minimi dettagli tutta la componentistica, componenti super selezionati, trasformatori rivestiti non so che materiale ci mettono, cavi in argento eccetera eccetera, fanno delle cose proprio da mania. E merda al tantalio, ma che va a fanculo, vai. Ampli ampliatori sono quelli che hai visto, quelli che ho pubblicato, quelli sì che sono finali, ma sono finali fatti seriamente, finali fatti per lavorare, esempi anche di cablaggio, strutture, che non c'entra niente quello che dicono loro, preampli realizzati con componenti misti ed è lo stesso, un condensatore, 100.000 picofa di poliestere, 100.000 picofa, puoi cambiare la marca come vuoi, l'isolamento è quello, 400 volt da 400 volt. Che non rompa i coglioni, però è un po' dura, un capustico, va bene, adesso ti mollo che ho delle parecchie cose da fare, e devo andare a vedere se uno mi dà un generatore RF, bellissimo, se me lo dà a buon prezzo, che lo sto seguendo da tempo, questo americano, visto che purtroppo chi me li forniva in Italia non ne vuole più sapere, grandetto, quindi adesso ho intacciato un po' di gente. Vabbè, ci sentiamo, grazie ancora, se ho problemi niente, chiamo a quel cognome lì. Tu non ci sei domani in negozio? Però sì che ci sono, io lavoro sulle 11 domani. E lo trovo con quel cognome lì, lo trovo comunque nell'elenco, no? No, la ditta la trovi con il nome di Giovanni, il cognome è mio, sì, però come Giovanni. Ok, perfetto, già chiamo lì, se mi trovo in giù chat ti chiamo, capito? Ma ce la dovrei fare, come mi hai detto tu, rispetto per il filo per segno ce la devo fare tranquillamente. Magari mi chiami davanti al cellulare, così per qualunque necessità chiami direttamente a me. Sì, guarda, ti faccio una cosa domani, prima di iniziare mi faccio la scaletta, poi ti chiamo, prima di fare qualsiasi cosa, così magari mi tranquillizzo di più, perché sai, quando tu fai una cosa che non è il tuo lavoro, anche se sono sicurissimo riesco a farla, però meglio, peraltro no, perché il materiale costa. Ehi, se no poi ci butti tutto e ci hai buttato 90 euro. Beh, quello sicuro. Va buona, là, ti saluto, buonanotte. Buon proseguimento, vabbè. Grazie ancora delle quattro chiacchiere. E vabbè, anche io stacco per mettarle anche a me. Ciao, saluto anche a tutti gli eventuali amici qua in ascolto sul 10. Correte da parte mia, ciao.